Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, ci siamo anche questa settimana. Cominciamo con il dolo, l'illegalità, le inchieste penali. I sistemi per sgominarlo. E poi cambiamo completamente argomento, sentiremo il rombo di una 124 Spider. Boom, ci abbiamo proprio il rombo, eh? E però vedrete che questo rombo c'entra con una certa possibilità di utilizzare i nuovi strumenti multimediali che avremo anche andando alla Pinacoteca di Alessandria. La realtà virtuale, ecco qua. Eccola qua. Partiamo. E adesso, Chiara, come abbiamo detto nei titoli, entriamo nel mondo del dolo. Sì. Del proviamo furto. Come, a capire come possa essere geniale, sì, geniale e anche sgominato. C'è e da anche dire. Sgominato. Allora è qui con noi questa sera Lorenzo Laurato. Buonasera, Laurato. Buonasera a tutti. Benvenuto. Allora, lei è l'amministratore delegato della SSRI, Sistemi Sicurezza Reti Informatiche. È una società che è incubata all'incubatore di Città della Scienza, che è una realtà che opera su scienza, tecnologia e innovazione a Napoli e ha tante attività anche sul piano dell'innovazione, e la SSRI è lì in questo incubatore. Allora, diciamo subito che molte cose non potremo chiedergliele, Laurato, perché voi siete già coinvolti. Non potrà rivelarle. Non potrà dirle, insomma, siete il settore nel quale ci muoviamo è abbastanza delicato, diciamo. Ecco. Allora, senta, Laurato, io l'ho visto, tra l'altro lei ci ha mandato delle belle foto che si potranno vedere sul nostro blog. Descriva alla mia collega Chiara come è fatto il Bancomat Kit, ecco, chiamiamolo così. Che sono curiosa. In realtà questa è una cosa curiosa, è un'indagine fatta un po' di tempo fa, in realtà è stata scoperta una banda di, lo possiamo dire tranquillamente, di rumeni, quali operavano tranquillamente tutta la costiera amalfitana, la penisola sorrentina, modificando, alterando i bancomat, apponendo proprio degli skimmer, detti tecnicamente sono degli skimmer, i quali raccoglievano i dati dalle... Skimmer in italiano delle mascherine? Cioè, in pratica una vera e propria mascherina, infatti ci sono le fotografie, sono delle mascherine che vi ho inviato, magari poi si potranno anche vedere. Certo. Dove venivano sovrapposte del lettore originale del bancomat, quindi venivano sovrapposti. C'è una sorta di riproduzione fedele. Sì, perfetto, una sorta di riproduzione dove entrava il bancomat o la carta di credito e all'interno c'era un lettore di carte il quale riusciva a leggere dalla banda magnetica e prelevava i dati e li immagazzinava a bordo, quindi conservava questi dati a bordo. Poi successivamente, diciamo così, i criminali entravano in azione, recuperavano la mascherina e avevano tutta una serie di dati, però solo questo non bastava. Infatti loro cosa si sono inventati? Che nella parte alta del bancomat, di solito dove ci sono le plafoniere per la luce, apponevano praticamente in questo caso un telefonino modificato, quindi completamente smontato, dove però era presente la videocamera, la quale riprendeva ininterrottamente la parte in cui si digitava il PIN. Il codice, è certo. Il codice PIN, esatto. Quindi loro in questo modo avevano tutte le informazioni utili per riprodurre poi le carte. Cioè avevano sia, diciamo, i dati del bancomat, sia il codice per sbloccarlo. Perfetto, ricostruivano il tutto. Ma era anche abbastanza sofisticato, perché quindi l'utente, diciamo, metteva il bancomat e riceveva i soldi, quindi era collegato in qualche modo. Non si rendeva conto chiaramente della... Certo. Spieghiamo magari meglio, cioè quando io infilo la tessera nella fessura del bancomat rumeno, la infilo in realtà in una fessura che è quella che è messa prima, originale, ma a un centimetro c'è quella originale. Primo, che è quella lì che è stata sovrapposta, e il secondo che entra poi nel bancomat della banca vera e propria, quindi lui fa tutte le operazioni e riceve anche i soldi in cambio. Certo. Però nel frattempo è stata copiata la banda magnetica della carta. Certo. Però questo per dimostrare che cose loro con le misure alla mano riuscivano a riprodurre la stessa plafoniera, quindi magari la sostituivano anche e rientrava perfettamente negli spazi in cui era stata. Ma senta, e questa roba qui si monta in un attimo? Era sì, abbastanza velocemente. Chi fa un po' di prove, chiaramente loro facevano anche prove, velocemente. Ma veramente in pochissimi minuti. Le banche inconsapevoli non se ne accorgevano neanche di questo tipo di truffa, non sapevano da dove venivano venivano le copie delle carte credito, perché poi venivano utilizzate in tutto il mondo. Senta, e poi... ma non è finito il tutto, perché chiaramente poi c'era la seconda parte, perché i dati andavano elaborati. E loro avevano anche quindi prodotto un software loro, il quale chiaramente i dati contenuti sulla banda magnetica non sono in formato intelligibile. Ah, giusto. Quindi bisognava poi decrittografare questi dati e riuscire a rigenerare il codice di carta. Quindi era un software abbastanza sofisticato, per dirla tutta, questi ci prendevano anche in giro, perché poi il loro software, quando partiva, aveva il logo dell'FBI. FBI, ah, sì, certo. Avevano dato il nome FBI. Fantastici, insomma, sì, hanno fatto dei bei lavori. Beh, però sofisticato era sofisticato, non è che possiamo dire di no. Senta, Laurato, voi avete apparecchiature, strumentazioni molto sofisticate e estremamente potenti, però le chiedo, stiamo usando tutto il potenziale che potremmo avere? Ma questa è una domanda, insomma, alla quale mi trovo molto in difficoltà, perché dico la verità, insomma, noi potremmo fare molto di più, ma veramente potremmo fare tantissime cose. In realtà noi ci occupiamo di computer forensic, quindi di reati informatici ne abbiamo visti tantissimi e ne continuiamo a vedere. Sicuramente le forze dell'ordine purtroppo sono oberate di lavoro e non hanno la preparazione giusta per poter affrontare questi reati, che poi in realtà non sono solo i reati informatici, ma sono anche il classico reato di evasione fiscale, dove però alcune informazioni, anzi quasi tutte ormai, passano per un personal computer, no? E beh, in realtà monitorare il tutto potrebbe essere utile assolutamente per ricostruire tutta la catena del passaggio. Però questo purtroppo non avviene, perché un po' le forze si disperdono, un po' non c'è la cultura giusta, non c'è la sensibilità a capire che c'è, ormai siamo nel mondo del digitale, dell'informatico, dove tutto passa attraverso la rete internet. Quando si parla di cose che si potrebbero fare, certo, siamo in periodi in cui non è che crescono gli euro nei campi, ma questo tipo di strumentazione più avanzata significherebbe investimenti impressionanti oppure basterebbe in fondo poco? Allora, guardi, dipende chiaramente da quello che uno ha intenzione di realizzare. Un'attività come la mia, che attualmente siamo composti da 5 persone e riusciamo a gestire, per esempio, la richiesta che viene dalla Procura di Napoli, ma in realtà ce ne sarebbero altre di richieste che non possiamo soddisfare, ma l'investimento iniziale, io le dico sinceramente, io ho iniziato con 15.000 euro inizialmente. È chiaro che poi più ci mettiamo e più riusciamo a gestire, ma non parliamo certamente di trilioni di dollari, di milioni di dollari, di euro, per dire. Però, Laurato, per capire, scusi, lei dice che lavora con la Procura di Napoli e riesce a gestire, diciamo, quelle che sono le loro richieste, quindi tante o poche che siano, comunque localizzate. Lei pensa che a livello invece nazionale come anche si potrebbe lì agire? Cioè, si potrebbero avere una rete di agenzie che collaborino con le varie procure? Oppure ognuno dovrebbe fare il suo pezzettino? Ma comunque la comunicazione è fondamentale, è importante. Lo scambio di informazioni è alla base. No, infatti, per quello le facevo questa domanda, perché furti di questo genere o comunque doli di questo genere possono esserci a Napoli, ma come a Bolzano. Quindi diciamo che la conoscenza, una volta capito come sgominarla, si sgomina dappertutto, insomma. E quindi, come dice lei, giustamente bisognerebbe a livello nazionale fare gruppo, fare rete, no? Certo. Organizzarsi e cercare di dare insomma, purtroppo la conclusione, e con questa la salutiamo, è che si potrebbe fare molto di più, recuperare un sacco di soldi per esempio, e però non sono necessari investimenti elevati, insomma. No, assolutamente, anzi io stiamo perdendo un'occasione importante. Sì, no, sicuramente basterebbero anche investimenti meno potenti dal punto di vista economico, però dare la possibilità a aziende, ecco, anche come la mia, di poter crescere e di poter chiaramente coordinarsi con altre aziende e creare una struttura, ecco, qui si parla tanto di cyber security, ma di una struttura che possa rispondere effettivamente a quello che sta accadendo nel mondo. Lorenzo Laurato, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Il traffico c'è e adesso ci dicono come va. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ecco, Chiara, tu riconosci... Beh, certo. Subito, al primo secondo l'ho riconosciuta. E invece, sentiamola ancora... Un fan, un grande appassionato qui, anche se questo rumore, questa macchina non è ancora in circolazione, secondo me un grande abartista riconosce è un che sound è un molto riconoscibile. Molto, molto, molto riconoscibile. Va bene, lasciamo questo... La signorina come si chiama? 124 Spider, è giusto? 124 ecco. Spider è quella appena uscita, no, sì, in un certo senso appena presentata. Io ho visto delle belle foto ed è veramente una bella macchina progettata da FCA. E noi qui abbiamo Paolo Gagliardo. Buonasera, Gagliardo. Buonasera. Direttore generale Abarth e Pepe Modder, che è responsabile del Digital CRM di FCA. Buonasera Pepe. Buonasera a lei. Allora, noi poi andiamo a parlare di uno strumento molto particolare che è stato creato per promuovere questa macchina, questa nuova avventura Abarth, e dopo vi spieghiamo perché è estremamente interessante nella storia delle nuove strumentazioni che ci dà il multimediale e la rete. Però, Gagliardo, noi non sbagliavamo prima dicendo che anche se questa macchina non è ancora in circolazione, però un abartista riconosce quel sound? Ma direi che avete centrato perfettamente lo spirito Abarth, iniziando il servizio con il sound, perché è proprio quasi il nostro punto di partenza. Noi quello che cerchiamo di fare è di regalare delle emozioni forti ai nostri clienti, da tanti e lo anni. Facciamo attraverso le prestazioni della vettura, che quindi rendiamo Abarth proprio attraverso la potenza del motore, la ripresa, la manovrabilità, la sicurezza e chiaramente alla fine mettiamo anche il sound tipico delle Abarth. La voce a questo punto. Gagliardo, abbiamo sbagliato prima dicendo che la 124 Spider è stata presentata al Salone di Ginevra e entrerà in vendita nelle concessionarie dall'autunno? No, guardi, è già in vendita, uno la può già prenotare. Si può prenotare. Quest'anno ne produciamo 2500 abartizzandole qui a Torino, okay. Per cui arriveranno poi in concessionaria, nelle concessionarie europee a partire da settembre. Senta Gagliardo, ma che cosa vuol dire? Perché qui stiamo parlando di una tradizione tecnologica Abarth che non ha due anni. Da quanto tempo c'è questa tradizione Abarth? Direi che Abarth è un marchio classico. La nostra caratteristica è quella di prendere delle vetture Fiat in questo caso. Sempre Fiat, quindi, certo. L'abbiamo già fatto con la 595 rispetto alla 500, adesso con la 124 Abarth rispetto appunto alla 124 Fiat, creiamo una storia di performance, di prestazione e vi faccio dire anche emotiva, quindi di gioia, di piacere di guida, di entusiasmo, adrenalina, attraverso il nostro intervento sulle vetture, che già di per sé quelle Fiat sono ovviamente fantastiche vetture, ma noi le diamo a queste vetture un tocco in più. Elevate la prestazione, come dire. La base è la prestazione, cioè il nostro cliente Abarth. I nostri clienti quello che apprezzano è la prestazione e il carattere della macchina, per cui quello che cerchiamo di fare è regalare emozioni, non soltanto la prestazione in senso stretto, ma anche le emozioni, la gioia, il sorriso per chi guida. Per chi certo, per chi la cavalca. Veniamo a lei, Pepe Moder. Allora, Pepe, avete creato un sistema multimediale digitale sia perché quest'auto non è ancora toccabile, no? Ma anche in generale perché chi è un fan Abarth vuole sapere un sacco di cose. Come funziona questa specie? Avete ricreato una sorta di realtà virtuale. Esattamente, è un configuratore in realtà virtuale che utilizza la nuova tecnologia HTC Vive e lo stiamo utilizzando perché abbiamo ricostruito all'interno di un garage molto ampio, abbiamo ricostruito la 124 Spider. Quindi una persona che non ha mai visto l'auto, ed essendoci ancora poca disponibilità di automobili da poter proprio vedere anche per strada, può entrare in contatto e può vedere questa automobile indossando il caschetto ed essendo completamente immerso all'interno di una nuova realtà. Realtà che non è solamente visiva ma anche acustica, perché indossando il caschetto indossa anche degli auricolari, i quali gli permettono di sentire oltre che di vedere. Che abbiamo già detto che è uno degli elementi per cui gli abartisti appunto si appassionano ovviamente all'auto. Esattamente, tant'è che tra le cose, che tra gli elementi di interazione che una persona può fare è anche quella di accendere il motore. Però la persona prima di tutto è di fronte all'automobile e incomincia a configurarla, quindi a interagire. Apre gli sportelli, vede i colori, la disponibilità degli option pack, ha il motore con tutta la descrizione e interazione dei motori. Questo ovviamente è un primo passo di un racconto molto più ampio che non racconta solo il prodotto, l'oggetto, ma racconta anche il marchio e la storia che questo marchio porta con grande dettaglio. E anche se è un'applicazione sofisticata, nel senso che c'è la possibilità ad esempio di avvicinarsi e aprire in qualche modo il baule, il cofano, e ci sono tutti i rumori che accompagnano, diciamo, queste operazioni, rendendolo molto reale. È talmente qualitativamente elevata che più di una persona ha avuto la tentazione, chinandosi per vedere magari dei particolari, di appoggiarsi con la mano, ovviamente al nulla perché non c'era, ma di avere la sensazione di appoggiarsi alla macchina per potersi rialzare, e ovviamente è un po' caduto, aiutare ad alzarsi. Quindi ovviamente questo è indice del fatto che c'è un fortissimo coinvolgimento. Altro elemento estremamente importante che determina, o che comunque dà indice della qualità degli strumenti utilizzati e dell'output, è che, come voi sapete, la realtà virtuale in passato poteva generare motion sickness, ossia, come dire, disturbi, nausea. Ecco, in questo caso con questi nuovi apparati che stiamo utilizzando non è stata riscontrata in nessun tipo, come dire, di prova. Senta, il cliente ha la possibilità anche di personalizzarla, cioè sappiamo che le auto Abarth sono molto belle anche da vedere, hanno appunto delle strisce colorate, delle bande, quindi c'è la possibilità anche di poter personalizzare e customizzare questo punto di vista, che ovviamente in un concessionario normale, anche se ci fosse l'auto reale, ce ne sarebbe una. Assolutamente sì, e questo è la prima ragione che ci ha spinto a concepire questo strumento di realtà virtuale, la possibilità quindi di poter personalizzare l'automobile attraverso i colori, attraverso gli optional, attraverso gli interni. Quindi sì, alla fine io ho la mia automobile che io ho scelto, che io mi sono configurato, e alla fine di questo processo posso anche richiedere di fare una prova, ovviamente non virtuale in questo caso, ma una prova presso il concessionario. Vengono registrati il nome e cognome della persona e poi il concessionario lo contatterà per invitarlo a fare la prova reale della sua automobile. Ecco, qua in conclusione c'è un fatto molto interessante che dobbiamo sottolineare, che va al di là dell'Abarth e quindi di un'automobile, ed è la cosa che appunto ci interessava come Mebius raccontare. Cioè, partiamo dall'idea che voi vi rivolgete a un pubblico ampio, vasto, però certamente di nicchia, cioè un pubblico che ha delle fortissime motivazioni e è anche molto esperto perché segue la tradizione Abarth. Allora a quel punto il venditore non può essere a livello di questo grande appassionato, e in questo modo però si riesce a dare al fan uno strumento di comprensione e navigazione del soggetto che è molto elevato, perché certo, cosa fate? Formazione a tutte le concessionarie. Questo, c'è una modalità, diciamo, proprio di vendita, di proposizione, che è tipica della modernità di questi strumenti digitali, no, Pepe? Sì, beh, intanto è estremamente immersiva e prevede comunque come dire, un'esperienza non solitaria da parte dell'utente, ma assistita da parte di una persona che ne sa di prodotto, perché è un Virgilio in questo caso il concessionario che accompagna, in quanto esperto di prodotto, accompagna nella scoperta del prodotto il consumatore, l'utente, la persona che sta, come dire, che è immersa all'interno di questa realtà virtuale. Ecco, vi salutiamo così, Gagliardo, salutiamo. E Pepe, grazie Gagliardo, grazie Pepe Moder, è un piacere, arrivederci, buonasera. Se andate al nostro blog vedrete un video molto curioso, cioè di un personaggio, una persona vera che sta davanti a un monitor e però con questo monitor entra in una pinacoteca, ma vedrete che muovendo il capo, avvicinandosi e allontanandosi, lavora con i quadri, le cose esposte, nel senso che se li vede più o meno da vicino, il video descrive tutto. Siamo anche in questo caso, come prima per Abarth, in una situazione nella quale gli strumenti multimediali ci danno dei nuovi percorsi espositivi, delle nuove possibilità di racconto. Adesso invece sentite questa conversazione con Antonio Testa di AT Media, che ha realizzato questo programma Copernico, appunto, che consente la visita alla Pinacoteca di Alessandria, ma poi è assolutamente utilizzabile in molti altre possibili situazioni. Sì, allora noi l'applicazione la vediamo applicata sicuramente nell'advertising, quindi per creare esperienza ed emozione legata soprattutto ad un video 360 e embeddabile quindi su tutti i siti web esistenti. Embeddabile. Spieghiamo, cioè vuol dire che per esempio lo si mette su YouTube e uno però da casa sua si muove dentro muovendo la testa, cioè diventa immediatamente interattivo? Sostanzialmente funziona come allo stesso modo di un video di YouTube, quindi Copernico, il video 360 e l'algoritmo di navigazione possono essere inseriti su un qualunque sito internet allo stesso modo di un video di YouTube ed è quindi possibile provare la stessa esperienza. Ovviamente dal punto di vista diciamo di applicazioni è possibile utilizzarla su ogni tipologia di settore merceologico, vedo molto bene assolutamente il turismo, quindi gli hotel, piuttosto che visite esperienziali o percorsi guidati fatti in determinate località, la visione di monumenti storici, musei e assolutamente anche real estate. Secondo noi, nel momento in cui la tecnologia ci segue, penso che ci stiamo arrivando, quindi proprio dal punto di vista del girato, perché l'algoritmo è pronto, può essere, diciamo, sostanzialmente un settore merceologico di grande interesse. Io devo scegliere che casa comprare o anche che casa affittare per le vacanze, mi ci muovo dentro col corpo praticamente, senza mouse varie. Sì, infatti l'esperienza che si vive è quella di essere, di immergersi completamente nella scena, nell'ambiente e di provare un'emozione legata a, oltre che al vedere un qualcosa, anche al fruire informazioni. Noi ogni tanto qui a Mebius abbiamo parlato di sistemi digitali, realtà virtuale che servono per esempio alla rieducazione di persone che hanno subito gravi traumi o in casi di disabilità. Anche qui viene ad essere completamente agevolata l'interazione con l'ambiente in cui ci si deve muovere, perché per esempio, facciamo un esempio concreto, persone che hanno subito un gravissimo incidente hanno una grande difficoltà a rientrare nella normalità, però gli si crea una dimensione virtuale nella quale però per esempio avere in mano degli strumenti per muoversi è certamente un po' artificioso, così ci si muove tranquillamente. Assolutamente, anche questo può essere un ambito di applicazione. Attraverso Copernico è possibile fare tutte queste cose, addirittura quindi muoversi sul web, navigare un sito internet, navigare le pagine di un sito web, fruire i contenuti e addirittura fare un acquisto online. Grazie a voi. È così, perché il mondo virtuale in realtà è reale, dai. Assolutamente sì, ci dà, come abbiamo sentito, tantissime possibilità. Non c'è il virtuale, mentre invece, ma nemmeno noi siamo virtuali, infatti torneremo fra... Ah no, noi siamo fisici e torniamo tra una settimana. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao. Ciao.